Balotelli è una persona che io non accetterei mai facesse parte dello spogliatoio del Milan. Adesso Balotelli non è più una mela marcia. Si vede che in campagna, soprattutto quella elettorale, tutte le mele sono buone. Colgi la prima mela, colgi la prima mela, colgi la prima mela.